tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale, info@sicilialibertaria.it. Esplode una gomma, bussi ribalta, strage di suore sull'autostrada. Dio non esiste, nessuno ci protregge. E vedi anche il mio libro sulle disgrazie dei papi. Quindi, nonostante tutte le loro preghiere, papi, suore, frati vanno incontro alle più terribili disgrazie. 4 suore morte e 9 ferite. Passiamo ora alle vittorie anticlericali. La Francia con il 51% di non credenti e atea o post-teista dal sito madrugada.blogs.com. Odi Freddi sta facendo un ciclo di conferenze in giro per l'Italia. Noi siamo sia eredità genetica sia culturale. Ha fatto uno spettacolo anche a Gallarate. Il celebre matematico ha dialogato con Luca Vettorello per filosofarti dalla prealpina del 9 marzo. Si ribadisce che noi siamo frutto di un'evoluzione. Guerra tra Don Camillo e Peppone non è finita, ma riprende a Cuccaro, Alessandria, dove una parte del paese, i bigotti, vogliono intitolare una piazza al parroco, mentre l'altra vuole intitolare la piazza a una personalità laica, quindi scontro coi clericali. Nonno pedofilo adescava bimbi all'oratorio e li violentava con amici a Roma. Dico sempre, evitate i preti, evitate gli oratori che sono luoghi pericolosissimi. 2 giovani hanno raccontato di essere stati vittime di abusi sessuali da parte di un pensionato che frequentava un oratorio di Roma. Da fanpage.it, 14 marzo 2022. Rete l'abuso. Pedofilia. In Irlanda del Nord il governo chiede scusa alle vittime. Violenze negli orfanotrofi e nelle scuole. Le scuse formali alle vittime degli abusi sono arrivate a 5 anni dalla pubblicazione della maxi inchiesta nell'Irlanda del Nord, dove era stato promosso e finanziato uno studio storico sul fenomeno della pedofilia ecclesiastica. Una commissione indipendente sulla pedofilia del clero anche in Italia. Appello dei teologi ai vescovi. Roma Adista, 10 marzo. La CEI istituisca una commissione indipendente che indaghi sulla pedofilia del clero in Italia. Lo chiede ai vescovi un nutrito gruppo di teologi e teologhe italiane in un appello pubblicato su Settimana News. Da il secolo XIX, Bolano, in provincia di La Spezia, il prete pretende di entrare alle poste senza Green Pass, ora rischia anche una denuncia, 1 febbraio 2022. Insomma, sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare alla calma le pretese del prete, cui è stata affibbiata anche una multa di 100 euro. Dal bimestrale Archeologia Viva, marzo-aprile 2022, la scoperta dell'Esculapio di Feltre in provincia di Belluno, forse abbattuto con l'affermarsi del cristianesimo. L'abbattimento di statue pagane era ricorrente in quell'epoca di fanatismo religioso cattolico, in cui non si aveva nessuna sensibilità verso le statue che venivano fatte a pezzi. Da il giorno del 9 marzo, cronache, abusi sessuali dal prete nel 2016, il PM, denuncia tardiva archiviate. Milano, il parroco di Affori, Don Lucchina, indagato. La vittima ha parlato oltre il limite di un anno il fratello del religioso Alberto, anche lui sacerdote, è sotto procedimento canonico per un altro episodio di sesso. Passiamo quindi a qualche ricerca storica. Febbraio 1572. Fanatici cattolici uccidono un protestante a Campovico Sondrio e feriscono a pugnalate un pastore evangelico. Da mie ricerche storiche. Per il 150° della morte di Mazzini, 1872-2022, crimini dei clericali contro i malati. Insomma, Mazzini nel 1872 arriva a Genova morente, la polizia tollera la cosa, e cosa succede? Che la sorella Antonietta, sposata ad un uomo assai bigotto clericale, non approvò mai la sua condotta, e quando nel 1872 il fratello tornò in Italia per morirvi, lei, in preda alle ossessioni religiose della vecchiaia, evitò di ospitarlo in casa. Vedi come il cattolicesimo distrugge anche le famiglie. L'uomo non è stato creato da alcun dio. Adamo ed Eva non sono mai esistiti. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano. Passiamo a il mio piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale. Metodo imbonitore di propaganda. Siamo arrivati alla M, che è un libro appunto in ordine alfabetico. Fu praticato soprattutto da Papa Paolo VI, per esempio con l'enciclica Ecclesiam Suam. Da Carlo Falconi, la crociata di Paolo VI, la svolta reazionaria di Papa Montini, Caos Milano 2007. Ministri delle tenebre, definizione del clero spesso usata dagli anticlericali di inizio secolo XX. Miracoli puerili sono stati fabbricati in quantità dai preti e soprattutto dai frati. Questa è una frase di Voltaire. Miscredenti. Per certi santi fanatici paleocristiani lo erano ad esempio tutti i discepoli dei sofisti greci. Da Deschner, Storia criminale del cristianesimo, edizione Ariele. Mistici maso-narcisisti, cattolici estasiati da fantasie religiose esasperate autolesioniste. Misticismo degenerato. È la follia di molti santi che distruggono il proprio corpo con spaventosi supplizi e mortificazioni. Mistificazioni celesti. Sono quelle propinate specialmente ai giovani in dottrinette e catechismi vari. Mito cristologico. È una superstizione elaborata da cosiddetti teologi e dogmatizzata dagli apparati ecclesiastici. Moderatume italo-cattolico. Da Lateo del 2007. Intona un coro stonato e spalmato su quasi tutti i partiti. Mollusco cefaloide. È la Chiesa che, come una piovra, si infiltra in tutti i gangli dello Stato, spillando quattrini e privilegi. Benissimo, arrivederci alla prossima puntata.